l'alba era chiara e mi attendeva l'amore a lungo sognato. E il cuore mi tremava nel petto e piansi, e piansi, e piansi.